Le cose incriminate dunque si inchinano, mostrando i punti deboli dello sfacciato annuncio del dì di dietro la loro irredenta inutilità. La rabbia solare soffia occhi vitrei, vedendoci il rossore della guancia emunta che preme umida, grinzando il cuscino. Una porziuncola sagoma frequenti risvegli e lì una mattina inumata stagna umorali ricordi o bella ciao distici ardor di patria e finalmente patisce un distacco di retina molto sommessamente l'occhio vecchio.